amato, te amato, te amato, te amato, te amato. Ma chi eri? Ma chi eri? Ora sembro un matto, sembro un matto, sembro un matto, sembro un matto. Ma chi eri? Ma chi eri? Era una notte, era una notte, era una notte. E tu c'eri, e tu c'eri, ma tu c'eri. Sembro un matto, sembro un matto, sembro un matto, sembro un matto, sembro un matto. E adesso, e adesso, e adesso, quella luce, quella luce, quella luce. Era un albero, era un albero, era un giorno, era una notte, era una notte, era una notte di febbraio, di febbraio, di febbraio. Ora sembro un matto, sembro un matto, sembro un matto. Ma chi eri? Ma chi eri? Ma chi eri? Ti ho amato. Era un'altra. Ma chi eri? Ma chi eri? Ma chi eri? Ti ho amato, ora sembro un matto. Eri un'altra, ma chi eri? Era febbraio, era una notte. Eri un'altra.